Non mi ricordo come, com'è che mi è accaduto che quella sera a casa poi non sono ritornato. Stavo seduto al parco, avevo smesso di pensare, guardavo quei bambini correre, giocare. Non vi so dire se sia stato il cielo oppure il vento, ma tutte le mie angosce svanirono d'incanto. Restò dentro di me uno strano vuoto mai provato, dolciastra sensazione di chissà che si è perduto. Restai a dormire sopra la panchina quella notte, svegliandomi ogni tanto per il freddo e le ossa rotte. Il mondo continuava fra una clausola e una corsa. Io mi sentivo libero, fuori dalla sua morsa. Mi risvegliò il rumore della strada, o forse un treno. Qualcuno scaricava per un bar poco lontano e non mi domandavo più chi ero e che facevo. Sapevo solo di essere sopra un parco e che vivevo. Poi cominciai a raccogliere gli oggetti che trovavo, una moneta, un sigaro ed un cappello nuovo. La barba già cresceva e mi faceva compagnia quando mi nascondevo negli anfratti della via. Passarono dei giorni e io camminavo lento sopra l'asfalto nero o sotto i muri di cemento e non volevo disturbasse mai nessuno la mia vita. La gente cominciò però a scansarsi infastidita. Il giudizio degli altri aveva perso l'importanza. Non sapevo più davvero che cos'era l'apparenza. Un passo dietro l'altro, senza più meta alcuna, solo la libertà di non averne più nessuna. Gli altri uomini dentro alle loro storie, ogni giorno alle prese con preoccupazioni varie, eppure così forti a tener duro e a non mollare. Pensavo fra me che eroi che siete a sopportare. I ragazzi, per scherzare, mi chiamano Platone, perché parlo di enti e idee e di trasmigrazione. Non mi ricordo più neppure dov'è che ho mai studiato. Non so da dove vengono le cose che ho imparato. Thank you. Ricordo solo che le mani lasciarono l'appiglio. Non c'era più la forza. Non c'era più l'orgoglio. Non è il naufrago che sceglie di morire, è che non ha più forza per restare sopra il mare. Anch'io lasciai la corda a cui da sempre ero aggrappato, al moto delle onde mi sono poi affidato. I resti di una vita li lasciai al mare e alle correnti, li misi nelle mani dell'oceano e dei suoi venti. E se invece di una spiaggia troverò la morte a fianco, regalerò anche a lei questo mio sorriso stanco e non avrò paura, l'accoglierò con un abbraccio. Sorella, sei qui a togliermi da quest'ultimo mio impaccio.